Fummo interrotti dalla voce dell'attrice che aveva cominciato. La sua era una recitazione intelligente, perché presupponeva la poesia che stava dicendo come un tutto esistente prima della recita e di cui noi non sentivamo che un frammento, come se l'artista, percorrendo una sua strada, si fosse trovata per qualche istante alla portata delle nostre orecchie. L'annuncio di poesie che quasi tutti conoscevano aveva fatto piacere. Ma quando si vide l'attrice, prima di cominciare, lanciare in ogni direzione occhiate smarrite, alzare le mani con aria supplichevole ed emettere ogni parola come un gemito, ciascuno parve imbarazzato, quasi turbato da una tale esibizione di sentimenti. Nessuno aveva pensato che recitare dei versi potesse essere qualcosa di simile. A poco ci si abitua, vale a dire che si dimentica la prima sensazione di disagio, si distingue ciò che va bene, si accostano mentalmente diversi modi di recitare per concludere qui è meglio, qui è peggio. Ma la prima volta, così come quando in una causa semplice si vede un avvocato farsi avanti, alzare in alto il braccio da cui ricade la toga e attaccare in tono minaccioso, non si ha il coraggio di guardare in faccia i vicini, perché ci si figura che sia grottesco, ma dopotutto è forse sublime e si aspetta d'essere ben sicuri. Non di meno, gli ascoltatori rimasero stupefatti vedendo quella donna, prima d'aver emesso un solo suono, piegare le ginocchia, tendere le braccia a cullare qualche essere invisibile, mettersi tutta storta e assumere a un tratto, per dire dei versi notissimi, un tono supplichevole. Tutti si guardavano, non sapendo bene che faccia fare. Qualche giovane maleducato soffocò una risata convulsa, ciascuno lanciava sul vicino l'occhiata furtiva che durante i pranzi eleganti, quando ci si trova davanti qualche nuovo strumento, forchetta da aragosta, grattugia per lo zucchero, eccetera, di cui non si conosce lo scopo e l'uso, si posa su un commensale più autorizzato che, si spera, se ne servirà prima di noi, dandoci così la possibilità di imitarlo. Così si fa anche quando qualcuno cita un verso che si ignora, ma che si vuol far credere di conoscere e che, come si cede il passo prima ad una porta, si lascia a uno più colto, quasi fosse un favore, il piacere di dire di chi è. Non diversamente, ascoltando l'attrice, ciascuno aspettava, la testa china e l'occhio indagatore, che qualcun altro prendesse l'iniziativa di ridere o criticare o di piangere o applaudire. Madame de Faucheville, tornata appositamente da Germain, da dove la duchessa era stata più o meno espulsa, aveva assunto un'espressione attenta, tesa, quasi apertamente sgradevole, o per mostrare che se ne intendeva e che non era lì in veste mondana, o per ostilità verso le persone meno versate in letteratura, cui potesse venire in mente di parlarle di qualcos'altro, o per concentrarsi con tutta se stessa allo scopo di capire se amava o non amava, o forse perché, pur trovando la faccenda interessante, non amava. Non almeno il modo di dire certi versi. Questo atteggiamento sarebbe dovuto essere, si può pensare, quello della principessa di Guermont. Ma poiché la cosa avveniva in casa sua e, diventata tanto avara quanto ricca, aveva deciso di non offrire a Rachel che 5 rose, lei faceva la clac. Provocava l'entusiasmo e curava la stampa uscendo di continuo in esclamazioni estasiate. Solo in questo tornava ad essere Verdurin, dando l'impressione di ascoltare dei versi per proprio piacere, d'aver voluto che venissero a recitarli per lei sola, e che ci fossero lì, per caso, 500 persone, tutte amiche sue, cui aveva permesso di assistere come di nascosto al suo piacere. Intanto mi accorsi, senza alcuna soddisfazione d'amor proprio, dal momento che era vecchia e brutta, che l'attrice mi faceva l'occhiolino, peraltro con un certo riserbo. Durante l'intera recita lasciò palpitare nei suoi occhi un sorriso represso e penetrante, che era come l'esca di un'acquiescenza che avrebbe voluto da me. Nel frattempo, alcune vecchie signore, poco abituate alle dizioni poetiche, dicevano a un vicino: «Avete visto?», alludendo alla solenne, tragica mimica dell'attrice che non sapevano come qualificare. La duchessa di Guermont avvertì la leggera titubanza e decise della vittoria esclamando: «È stupendo!» nel bel mezzo della poesia, credendola forse finita. Più d'un invitato s'affrettò allora a sottolineare questa esclamazione con uno sguardo di consenso e un cenno del capo, meno forse per mostrare la sua comprensione della recitante che i suoi rapporti con la duchessa. Quando la poesia fu finita, poiché ci trovavamo accanto all'attrice, la sentii ringraziare Madame de Guermont e nello stesso tempo, approfittando del fatto che io ero al fianco della duchessa, si girò verso di me e mi rivolse un grazioso saluto. Capii allora che era una persona che dovevo conoscere e che, al contrario degli sguardi appassionati del figlio del signor di Vaugobert, che avevo interpretati come il saluto di uno che mi scambiasse per qualcun altro, quello che avevo interpretato nell'attrice come uno sguardo di desiderio era solo una contenuta provocazione a farsi riconoscere e salutare. Ricambiai sorridendo il suo saluto. «Sono sicura che non mi riconosce», disse la recitante alla duchessa. «Certo che sì», replicai con sicurezza. «Vi riconosco benissimo». «Ebbene, chi sono?» Non ne avevo la minima idea, e la situazione per me si faceva delicata. Per fortuna, se durante i bei versi di La Fontaine la donna che le recitava con tanta baldanza aveva pensato soltanto, non so se per bontà, stupidità o imbarazzo, al problema di salutarmi, durante gli stessi bei versi Bloch aveva pensato soltanto a compiere i suoi preparativi per potere, subito dopo la fine della poesia, balzare come un assediato che tenta una sortita e, passando sui corpi, o almeno sui piedi dei vicini, precipitarsi, o per un'errata concezione del dovere, o per desiderio d'ostentazione, a complimentare la recitante. «Che strano vedere qui Rachel», mi disse all'orecchio. Questo magico nome spezzò di colpo l'incantesimo che aveva dato all'amante di Saint-Leu la forma sconosciuta di quell'immonda vecchia. Non appena seppi chi era, la riconobbi perfettamente. «È stato bellissimo», disse Bloch a Rachel, e, pronunciate queste semplici parole, soddisfatto il suo desiderio, se ne andò via. E fece tanta fatica e tanto rumore per tornare al suo posto che Rachel dovette aspettare più di 5 minuti prima di poter recitare la seconda poesia. Finita anche questa, che era Le Deux Pigeons, Madame de Morinval si avvicinò a Madame de Saint-Luc, che sapeva molto letterata senza ricordare a sufficienza che aveva lo spirito sottile e sarcastico del padre, e «Era la favola di La Fontaine, non è vero?» le chiese, sembrandole sì d'averla riconosciuta, ma non essendone proprio sicura, perché conosceva pochissimo le favole di La Fontaine ed era inoltre convinta che fossero cose per bambini e non da recitare in società. Per avere un tale successo, l'artista doveva aver fatto delle favole di La Fontaine, pensava la brava signora, una sorta di arrangiamento. Ora, Gilbert la fece sprofondare senza volerlo dentro questo errore, giacché non amando Rachel e volendo dire che delle favole in una recitazione simile non restava niente, lo disse nel modo troppo sottile che era quello di suo padre e che lasciava le persone ingenue nell'incertezza di che cosa intendesse dire «un quarto è invenzione dell'interprete, un quarto follia, un quarto non ha alcun senso, il resto è La Fontaine». Il che permise a Madame de Morienval di sostenere che quel che s'era ascoltato non era Les deux pigeons di La Fontaine, ma un arrangiamento in cui non più d'un quarto era La Fontaine, cosa che non stupì nessuno, data la straordinaria ignoranza di quel pubblico. Ma Bloch, poiché un suo amico era arrivato in ritardo, ebbe la gioia di chiedergli se non avesse mai sentito Rachel e di fargli una descrizione straordinaria della sua dizione, esagerando e trovando di colpo nel raccontare, nel rivelare a un altro quella dizione modernista, un piacere strano che non aveva affatto provato nell'ascoltarla. Dopodiché, con un'emozione esagerata, si felicitò con Rachel in tono di falsetto e le presentò il suo amico, il quale dichiarò di non ammirare nessuno quanto lei. E Rachel, che adesso conosceva alcune signore del gran mondo e senza rendersene conto le imitava, rispose «Oh, voi mi lusingate, mi fate troppo onore col vostro apprezzamento». L'amico di Bloch le chiese che cosa pensasse della Berman. «Povera donna! Sembra che sia ridotta in miseria. Non le mancava, non dirò, il talento, perché in fondo non era vero talento. Non amava che cose orribili, ma insomma è stata utile. Questo è certo. Rispetto agli altri recitava in un modo più vivo. E poi era una brava persona. Generosa. Si è rovinata per gli altri e siccome è tanto ormai che non guadagna più un soldo perché al pubblico è tanto che non piace quello che fa, del resto, aggiunse ridendo, vi dirò che la mia età mi ha permesso di sentirla, ovviamente solo negli ultimissimi tempi e quando ero troppo giovane per capire. I versi forse non li diceva molto bene? Azzardò l'amico di Bloch per lusingare Rachel, che rispose «Oh, non ne ha mai saputo dire uno. Era prosa, era cinese, era volapük, tutto tranne che un verso». Ma io mi rendevo conto che il passare del tempo non comporta necessariamente un progresso nell'arte. E così come un autore del XVII secolo, che non ha conosciuto né la Rivoluzione francese, né le scoperte scientifiche, né la guerra, può essere superiore a uno scrittore di oggi, e forse lo stesso Fagon era un medico non meno grande di Du Boulbon, la superiorità del genio compensando in questo caso l'inferiorità della scienza. Allo stesso modo la Berma era, come si suol dire, di molte lunghezze superiore a Rachel. E il tempo, mettendo questa al primo posto contemporaneamente a Elstir, aveva sopravvalutato una mediocrità e consacrato un genio. Non bisogna stupirsi che l'ex amante di Saint-Luc parlasse della Berma. Lo avrebbe fatto quando era giovane. Se anche non lo avesse fatto allora, lo avrebbe fatto adesso. Prendete una donna della migliore società, della più elevata intelligenza, della più grande bontà e fatene un'attrice. Fate che dispieghi in questo mestiere per lei nuovo il più grande talento e non vi incontri altro che successo. Vi stupirete, parlando con lei dopo molto tempo, di non sentire più il suo linguaggio, ma quello dei commedianti. La loro particolare perfidia nei confronti dei colleghi, tutto ciò che possono aggiungere all'essere umano passando su di lui 30 anni di teatro. Rachel li aveva e non veniva dalla migliore società.